Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Buongiorno e benvenuti anche a questa nuova puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che oggi cattura, si fa per dire, la voce di un personaggio davvero rilevante nel mondo della comunicazione. Parliamo di Antonio Faeti, conosciutissimo a Bologna come professore dell'Università di Magistero della città, ma sicuramente uno dei più blasonati mass mediologi del nostro paese, nonché figura di prima importanza per quanto riguarda la letteratura per ragazzi e decano del fumetto italiano. Quindi c'è tutto di più come risorsa per conoscere un altro pezzo di rodare del Pioniere che è un po' il cuore della nostra trasmissione. Abbiamo rapito, tra virgolette, questa voce in questo convegno organizzato dal CRAP, il Comitato Ricerca Associazione Pionieri, in quel di Urbino l'estate scorsa. Ascoltiamo una prima parte dell'intervento. Con Rodari siamo stati così amici che è venuto nelle mie classi quando facevo il maestro. E Gianni era un intellettuale di così ricca valenza, per esempio le lingue gli erano facilissime, mi spiegava i Grimm direttamente in tedesco, visto che stavo lavorando al mio millennio einaudiano su Emma Perodi, e aveva una capacità di lettura di testi di altre culture come raramente ne ho viste, anche nella università dove ho trascorso poi tutto il resto della mia vita dopo la scuola elementare. Quindi la prima cosa che bisogna segnalare è che di per sé, e speriamo che il centenario in questo senso un aiuto lo dia, non è che siamo preparati nei confronti della grandezza e della singolarità, della rarità di uno come Gianni Rodari, perché abbiamo qualche buon saggio, qualche buon intervento, qualche precisazione, sappiamo veramente troppo poco. E forse la sinistra, mi permetto di fare osservare, sconta momenti così duri come quelli che attraversa al momento, perché le gioverebbe una memorizzazione di sé che invece non esiste e men che mai esiste al momento. Così le varie destre, alcune, io ho 80 anni e sono pessimista di natura, però che tornassero i sovranisti non avevo mai pensato che fosse possibile, che ci fosse in edicola a Pesaro dove passo l'estate, grande così, lo stesso giornale che amava Mussolini e al quale dava il massimo aiuto possibile e che dice quasi le stesse cose ambientate all'oggi. Io ho una riflessione da fare, sono anche uno studioso di fantascienza, non ho mai incontrato un libro di fantascienza così disperato, così follemente disperato. Allora, se continuiamo così, noi rivivremo un po' di tutto. E dico subito che io sono nato nel 1939, che sono di una strada proletarissima, via Orfeo a Bologna, che via Orfeo fa angolo con via Borgolocchi, dove torturavano i partigiani, dove le camicie nere della RSI torturavano i partigiani, e dove a 5 anni ho visto com'era ridotta Irma Bandiera, come portavano fuori Irma Bandiera da via Borgolotti a Bologna. E dopo, dando una mano ai partigiani dell'Ampi per ricostruire la vita di una nostra grandissima concittadina, scrittrice partigiana, Renata Viganò, abbiamo visto il resto. E sono svenuto nella sede dell'Ampi, perché quello che è uscito da via Borgolocchi è qualcosa di terribile. Attenzione allora, che stasera potrebbe aprirsi per l'Italia, per il nostro paese, per la nostra triste situazione del presente politico, un varco, l'unico varco che si può aprire, andare a rivedere, andare a studiare, andare a ricercare, ricollocare, riprendere il filo. Il pioniere non veniva accettato. Ah, fatemi entrare, voglio giocare, voglio ballare insieme a voi. No, sei troppo ignorante, odori di gente che non conta niente, paura ci fai. Eppure io sono buono, ma sarà, mi porto un po' di vino, non ci piace, e son di compagnia. Volete forse con un altro mi scambiate? Non feci mai del male. Mio padre è guardia comunale, mia madre lavora all'ospedale. Per questo tu non sei a noi uguale. Allora si potrebbe partire da quando Togliatti li convoca e gli dice che vorrebbe un giornale per ragazzi, e vorrebbe che fosse comunista, e vorrebbe che avesse un certo tipo di impianto teorico visibile nei vari elementi che lo componevano, ma non li suppone capaci di farlo, e quindi si sente più che li sfida ad andare avanti, a fare queste cose, non si aspetta che lo facciano e che lo facciano bene. Bisogna assolutamente, per dare un ruolo, uno spazio, un significato, un tono a qualunque indagine delle tante che ce ne saranno su Pioniere, prendere i due fratelli nemici, e cioè Vittorioso e Corriere dei Piccoli. Si è d'accordo fra fumettologi di tutto il mondo a dire che non c'è mai stato un settimanale per ragazzi bello come il Vittorioso. Lo dicono perfino i francesi, che sono gli sciovinisti che sappiamo, e fanno a se stessi un torto, perché nelle mie ricerche ho dato invece il privilegio massimo a un loro settimanale per bambini che si chiamava La Semaine de Suzette ed era rivolto alle bimbe e aveva tali talenti da ogni punto di vista che l'editore Salani comprò i romanzi a puntate e cominciò a pubblicarli nella biblioteca dei miei ragazzi. Quel signore che oggi comunque salta fuori e ha tante visite nella sua Predappio, si guardò bene dal vietare la produzione francese in Italia, ma propose all'editore Salani, da lui chiamato Camerato Saloni, come usava fare, di attaccare un ballillino ad ogni signorina francese. E così la versione italiana della biblioteca dei miei ragazzi comprende ben 5 romanzini sulla guerra civile di Spagna, con il ruolo dei militi italiani. Sai dove s'annida mio gloria e cuore, sai dove s'annida mio magico e le suore, sulle barche ti leva con l'Africa d'or, la bella Italia ci attita un tesoro, ci attita un tesoro. Cosa si presentò a, non bisogna mai dimenticarlo, che è stata una grandissima persona e un grande compagno, Marcello Argilli. Rodari da un lato, ma molto più operativo, molto più capace di organizzare, di creare, di mettere insieme le cose, era Marcello. Dovevano fare un settimanale che piacesse, che accettasse la concorrenza pugnace degli altri due, che riuscisse a farsi strada in una dimensione chiusissima dove tutto era già iperdefinito, ma dove si voleva stare anche con le bandiere, con le idee, con gli slogan di quel momento tremendo tra la sconfitta del 48 e le equivoche elezioni del 53, dove se voi guardate una qualunque fotografia d'epoca pubblica, vedete che quei baffettini definitori che hanno i militi della Celere di Mario Selba sono gli stessi dei 10.000 militi della più feroce delle Brigate Nere, la Aldo e Resega, che dava gli ordini in dialetto protoleghista, non voglio andare per quella strada. Comunque nel gagliardetto nero, insieme al teschio, la frase diceva «Forza Bagay! Forza Figuezzan! Per la gloria dell'Italia e de Milan! Forza Bagagli! Forza Fegatisani! Per la gloria d'Italia e di Milano!» Un recupero dialettale che sa di tremendo, perché sa di antigranziano con l'eventuale consapevolezza di ciò che stai facendo. Infatti in quel bel libro dimenticato, due volumoni così, di Renzo Del Carria, Proletari senza rivoluzione, dove sono elencate tutte le sconfitte del proletariato italiano, tutte le volte che è sceso in campo, Mirabile come ricordo, l'oltretorrente di Parma, per dirne uno, noi sappiamo che oggi su questo livello c'è una smemoratezza totale. All'interno di questa dimensione cosa devono fare quelli del pioniere? Bisogna inventarsi l'avventura. È facile? È possibile inventarsi l'avventura? È difficilissimo. Come faranno? Andranno a prendere, e in ciò mi inchino da pedagogista, quegli elementi della storia, dell'immaginario collettivo che gli altri non possono narrare. Cos'è, per esempio, che non si può narrare nel 1949, che ti sequestrano il giornale? Non ti possono narrare un western se parli di caste, sono venuti dai sequestri. Perché? Perché Custer, anche se viene presentato come un eroe, anche se gli danno i panni e il volto di Harold Flynn, è un nazi, tira al genocidio. Degli indiani d'America è stato fatto un genocidio. Sostanzialmente, quindi, il western, filmico e fumettistico e romanziere, è falso. È uno dei genocidi della storia, con ammazzamenti da fare rabbrividire. Il pioniere interverrà sul western con una voce differente, che non sarà né quella della Ford più equivoco, si pente verso una certa età e agisce in maniera un po' diversa, per esempio Sentieri Selvaggi non ha più il fervore massacratorio di Ombre Rosse. È successo qualche cosa anche da loro. Seconda parte della nostra trasmissione, che va su un tratto tribale orientale, di Enea Luisi in Arti Lume. Quest'artista, insieme a Francesco Greco, ha dato vita all'autoproduzione di Dalla parte dei cattivi. Per l'intervista ringraziamo la rubrica di Street Art, hashtag Bagzjam Bagzin. Sentiamo l'intervista a Lume. Io sono di Bologna e qua a Bologna sono partito come disegnatore, cioè non mi piace definirmi in nessun modo se non come quello, perché mi piace sperimentare vari supporti, varie tecniche, sia dal digitale che da quella che viene definita street art, ma che in altro non è che disegnare su una parete verticale. Quindi così, io disegno, sono un disegnatore. Mi ha sempre appassionato proprio l'aspetto della penna sulla carta, anche passando a studiare grafica d'arte in accademia, dove ho imparato a stampare, la calcografia, la serigrafia, tante tecniche diverse, che però mi hanno sempre portato sempre di più a legarmi al disegno, perché comunque anche una tecnica come l'incisione, quella più tradizionale, parte da questi segni, questi tratteggi. Anche lì, qui nell'Accademia di Bologna, è interessante perché almeno le prime lezioni, i primi corsi ti fanno riprendere molto questo legame con il disegno per poi farti passare all'incisione. E comunque anche appunto passando da tutte queste varie tecniche, sperimentazioni, sono sempre rimasto legato a quello. E magari invece se vuoi dirmi ispirazioni, non necessariamente artisti, ma anche culture piuttosto che altre robe che ti hanno influenzato, sì, dopo nel segno stilistico, se c'è qualcosa. qualcosa? Ma nel segno stilistico spesso mi vengono associate le mie cose all'arte un po' tribale, l'arte orientale, che però in realtà è un grande mix di influenze anche familiari. Fin da piccolo ho seguito, diciamo, le lezioni di mia madre, che è una ballerina e ha sempre insegnato danze etniche, principalmente quella africana, quindi penso che la maggiore influenza venga da quello. E anzi, tutti mi chiedevano sempre se fossi mai stato in Oriente o cose così, e in realtà no, ci sono andato solo l'estate scorsa e mi ha aiutato molto per l'ispirazione, però diciamo che è una cosa che ho sempre avuto così interiorizzata. Anche, diciamo, verso i 17 anni mi sono molto improntato sull'aspetto indiano, le divinità indiane, perché mi piaceva questa varietà di forme, di tanti connotati, occhi, braccia che si mischiavano insieme insieme alle loro simbologie. Ma comunque, diciamo, sì, è una cosa che ho sempre molto interiorizzato, anche quando non disegnavo specifiche rappresentazioni indiane. Non so, l'ho notato poi ultimamente riguardando vecchi disegni, che appunto ritorna sempre questo aspetto di un uomo centrale con una vastità di simbologie, oppure braccia mozzate e altre cose del genere, che appunto nel mio viaggio dell'anno scorso ho scoperto che sono anche forme ricorrenti pure nella cultura tantrica, no? Dell'India, questa cosa dei bracci mozzati. Infatti, sempre per parlare della mamma, lei mi ha sempre cazziato su questa brutalità di amputare i corpi, e poi dopo ho scoperto queste miniature tantriche dove in realtà era una simbologia molto ripetuta, e mi ha fatto un sacco piacere, ecco. Restando sul filone del macabro, ci colleghiamo subito al tuo progetto editoriale Dalla parte dei cattivi. Dalla parte dei cattivi è un'autoproduzione, quindi non abbiamo scelto di appoggiarci ad un editore o altro, ma di crearlo da zero. È un progetto che sviluppiamo con Francesco Greco, che sarebbe lo scrittore delle storie. È questo libro dove ci sono 37 illustrazioni e 37 monologhi, e da qui deriva proprio il nome e il titolo del progetto, Dalla parte dei cattivi, che non voleva essere uno schieramento, quindi dalla forza oscura, dall'antagonista, ma più che altro un'analisi sulla forma di questa figura, sul suo sviluppo, sulla sua origine. Infatti in queste 37 storie Francesco Greco ha fatto un grande lavoro analizzando proprio a livello di testo, tramite delle apologie oppure tramite l'idea del trickster o il racconto più puro e semplice, proprio questo sviluppo della mentalità dell'antagonista, che l'antagonista in realtà è il principale motore della storia, cioè il motivo per cui l'eroe compie il suo viaggio. E tra tutti questi antagonisti c'è chi ci è nato, chi per motivazioni politiche è stato portato a, diciamo, al lato oscuro della forza, e chi meno. Questo progetto l'abbiamo appunto sviluppato in un anno, disegnando compulsivamente, scrivendo sempre nella stessa casa, che era la nostra base operativa. Sono illustrazioni molto tradizionali, se vogliamo, un po' diverse dagli ultimi lavori che ho fatto in questi anni, perché la nostra idea era quella di creare delle sorte di icone, quindi un po' anche per cercare di svincolarci dall'aspetto fantasy che molti di questi personaggi, che ne so, come Cthulhu oppure Dracula eccetera, hanno, diciamo, questo alone di fantasy. Volevamo un po' uscirne, quindi non finire per fare il classico mostro con tuoni e fulmini, ma cercare di creare delle icone, cioè come se fossero su carta chiaramente, però dei bassorilievi, come se fossero delle rappresentazioni fatte dalle culture che raccontavano questi personaggi. Quindi sì, è tutto in due dimensioni, che è un po' comunque una direttiva del mio stile, cioè non utilizzo chiariscuri o tonalità che possano dare dei volumi, ma i volumi sono creati dai pattern. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith.